storia un po' inventata, sembrava eterno invece poi finì. Confusi, pazzi, rinsaviti, sereni, allegri e poi agitati, il cuore e il sesso giocano così. Eternamente innamorati e il giorno dopo sconosciuti, pensarti dire no e dire sì. Che buon amore resta con me, ormai per sempre. Sempre, e da me qualsiasi cosa, ho scelto te.